24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il lunedì nero delle borse continentali con perdite pesanti. Il presidente della BCE Trichet chiede una governance economica più incisiva, mentre Mario Draghi, che sostituirà Trichet a novembre, avverte gli interventi di Francoforte sul mercato dei titoli di Stato sono temporanei. Da Bruxelles la notizia che è pronto il progetto di riforma della politica agricola comune con le prime indiscrezioni. Oggi vi parleremo anche dei test universitari di accesso in Italia, facendo una comparazione con le altre pratiche in Europa, e per chiudere le qualificazioni agli europei di calcio, l'Italia affronta la Slovenia. Nella lunedì nero delle piazze d'affari europee sono giunti forti i richiami dell'attuale e futuro presidente della Banca Centrale. Partiamo da qui per raccontare questa ennesima giornata difficile per l'Eurozona. Contro la crisi del debito occorre una governance economica europea molto più incisiva. Serve una maggiore capacità di sanzioni preventive per i paesi che sforano i limiti di indebitamento. Lo ha ribadito da Parigi il presidente della BCE Jean-Claude Trichet. Secondo Trichet, che è tornato ad auspicare l'istituzione di un ministro delle finanze comunitario, se un paese non riesce a prendere le decisioni adeguate in termini di risanamento del bilancio, dovrebbe essere consentito imporle a livello centralizzato. Dall'attuale presidente della BCE è giunto infine un appello ad attuare immediatamente gli accordi presi dai capi di Stato e di Governo al Consiglio del 21 luglio. E il commissario agli affari economici Olli Rehn condivide il richiamo fatto da Trichet. Evidentemente gli sforzi non possono pesare solo sulle spalle della BCE, ha affermato il portavoce di Rehn Amadeu Altafaj. Gli interventi calmieranti della BCE sul mercato dei titoli di Stato sono temporanei, non possono essere utilizzati per eludere la disciplina di bilancio e non devono essere dati per scontati dai governi che ora sono chiamati ad assumersi le loro responsabilità, agendo rapidamente per risolvere la crisi dei debiti pubblici. Così il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che ha fatto eco a Trichet, al quale subentrerà, lo ricordiamo, a novembre. E la crisi del debito sovrano, insieme ai timori di una nuova recessione, hanno mandato al tappeto, come dicevamo in apertura, i listini europei, che hanno aperto la settimana in profondo rosso. Londra ha perso oltre il 3%, Parigi il 4,70%, Francoforte oltre il 5%, a Milano il FTSE MIB ha ceduto il 4,83%, il FTSE All Share meno 4,73%, i dettagli nel servizio. I listini europei hanno aperto la settimana così come l'avevano chiusa, in profondo rosso, con perdite fra il 4 e il 5%. A Milano il FTSE MIB ha ceduto il 4,83%, il FTSE All-Share il 4,35%. La crisi del debito dei paesi europei è tornata a far preoccupare per la situazione dell'Italia. Durante la giornata sono riapparsi i rumor su un possibile downgrade del nostro paese da parte dell'agenzia di rating Moody's, che però in serata ha precisato che per il momento tutto resta invariato. L'incertezza comunque ha mandato al tappeto tutto il settore bancario italiano, con Unicredit e Intesa San Paolo che hanno ceduto il 7%. Male anche l'industria, con Fiat e Fiat Industrial giù del 6,5%. Edison, infine, ha perso il 3,3% nel giorno in cui è stato deciso di dare più tempo ai soci italiani e francesi per decidere il riassetto della società. La nuova scadenza è ora fissata per il 30 ottobre. Guido Maurino, da Radio Corpo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Europa e la zona euro sono forti e resistenti. Noi stiamo facendo tutto ciò che è necessario per affrontare i problemi di bilancio con il rafforzamento della governance e delle regole della finanza, insieme al miglioramento della nostra competitività. Lo ha affermato il presidente della Commissione europea Giuseppe Barroso in un discorso pronunciato dall'Australia. E intanto i paesi dell'Unione europea si mobilitano sul pareggio di bilancio in Costituzione. Manovre in corso nella UE alla ricerca della regola d'oro per vincolare il bilancio dello Stato al pareggio con una modifica della Costituzione. Ci ha pensato la Germania nel 2009, introducendo un freno all'indebitamento per i conti dello Stato federale dei Länder. E la stessa cancelliera Angela Merkel l'ha chiesta a gran voce ai partner dell'area euro, insieme al presidente francese Sarkozy. La Spagna ha subito risposto all'appello ed è già al rush finale. Dopo il via libera della Camera della settimana scorsa, dopodomani tocca al Senato. Sarà poi una norma successiva a definire tempi e procedure. Più complesso il match francese. Il premier Fillon inizierà oggi le consultazioni per cercare un accordo coi partiti dell'opposizione, che non vedono di buon occhio vincoli di questo tipo. Senza di loro, però, le nuove regole non possono passare. Anche l'Italia ha risposto ai richiami al rigore annunciando una modifica dell'articolo 81 della Costituzione. Il dibattito è aperto e restano ancora numerosi nodi da sciogliere, come l'individuazione delle possibili deroghe e dei soggetti di controllo. Chiara Bussi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy non ha escluso un prolungamento del suo mandato, che scade a metà 2012. Se osassi pensare a un secondo mandato è perché il lavoro non è terminato, ha detto parlando alla radio VRT. È pronto intanto il progetto di riforma della politica agricola comune messo a punto dal commissario all'agricoltura Dacian Ciolos e che la Commissione intende approvare i prossimi 12 o 13 ottobre, lo hanno indicato fonti comunitarie. Secondo le prime indiscrezioni, il progetto introdurrebbe un tetto alla concessione di aiuti europei all'agricoltura pari a 300.000 euro. Parliamo ora di politiche industriali su scala europea. Tra i temi affrontati lo scorso weekend al workshop Ambrosetti di Cernobbio si è parlato pure di Fiat. È stato chiesto al ministro dello sviluppo Romani se fosse al corrente di un progetto del Lingotto per spostare la sede in Olanda. Sentiamo. Io non ne sono al corrente, parlo quotidianamente con Fiat, quindi non mi sembra che sia questo il problema. Io mi attendo oggi che noi come governo e come paese abbiamo dato le risposte che Fiat si attendeva, che prosegua nel processo di investimento, che prosegua nella decisione di fabbricare in Italia 1.600.000 automobili, che prosegua nel rafforzamento degli insediamenti produttivi già esistenti, e quindi mi aspetto che quello che è stato promesso direttamente dal management Fiat al governo italiano, al Presidente del Consiglio, venga mantenuto. La Commissione europea esaminerà la bozza del nuovo codice del lavoro ungherese, fortemente contestato dai sindacati, per verificare se sia in linea con le normative comunitarie. Secondo i sindacati, le nuove normative renderebbero impossibile la loro stessa esistenza. Il governo di Budapest dovrebbe decidere al proposito in autunno. 10 anni dopo l'11 settembre, la buona notizia è il fallimento della retorica di Al-Qaeda e che un attacco di quella portata è ora improbabile. Lo ha sostenuto il coordinatore della lotta al terrorismo europeo, Gilles de Kerchove, in una conferenza stampa a Bruxelles. Cambiamo argomento: se gli stati membri non correranno ai ripari, la media dell'immondizia prodotta da ciascun cittadino europeo nel 2020 raggiungerà quota 558 kg l'anno. E questo è uno dei dati contenuti nell'ultimo rapporto dell'Agenzia per l'Ambiente, secondo cui la quantità di rifiuti prodotti in Europa continua a crescere in maniera costante. 90.000 candidati, 9.000 posti, il calcolo è presto fatto. Tra gli studenti che ieri mattina hanno affrontato il test di accesso alla facoltà di medicina, solo uno su 10 potrà frequentare il corso di studio. Un metodo, questo dei test, che non viene però seguito in altri paesi europei. Renato Reggiani, direttore di Universinet.it, al microfono di Maria Piera Ceci. Esistono sistemi diversi per paese. La differenza principale rispetto a noi è il peso che viene dato al curriculum dello studente, perché in Italia sembra quasi che le istituzioni non si fidino l'una dell'altra, l'università non si fida della scuola, la scuola non si fida dell'università, quindi all'università nessuno in un certo senso si fida di una lettera mandata magari da un preside, come avviene in moltissime università anglosassoni o americane, che presenta un candidato e quindi su quella lettera viene anche assegnato un punteggio, oppure sul fatto di far svolgere a dei candidati dei paper, cioè dei temi o comunque dei lavori che vengono poi inviati all'università ed entrano anche questi nella valutazione. Circa il 40% degli europei, pari a 165 milioni di persone, è colpito da malattie mentali e neurologiche. Ogni anno soffre di problemi quali depressione, ansia, insonnia o demenza. Tuttavia solo un terzo di loro riceve la terapia o i farmaci necessari. A rilevarlo è un vasto studio europeo, pubblicato dallo European College of Neuropsychopharmacology. Più di 1.500 volontari provenienti da ogni parte del continente chiederanno una carta europea dei diritti e dei doveri durante un incontro di 5 giorni che si terrà nella piazza antistante l'Europarlamento da mercoledì a domenica, in quella che sarà la più grande manifestazione di sempre nell'ambito del volontariato. In chiusura il calcio, seconda giornata delle sfide valide per le qualificazioni agli europei di Polonia ed Ucraina 2012. A Firenze l'Italia affronta la Slovenia dopo il successo di misura in trasferta con le isole Faroe. Gli azzurri cercano ora la vittoria, che vorrebbe dire qualificazione anticipata. Sentiamo il CT dell'Italia Cesare Prandelli sull'interpretazione tattica della gara con i sloveni. I due esterni stanno lavorando tanto, hanno spinto tanto, quello che stiamo chiedendo, e poi secondo me si equivalgono. Non mi cambia l'assetto, cambiando solo un centrocampista dovrei andare a rivedere un po' questo tipo di concetto, perché non tutti hanno queste caratteristiche. Io sono convinto che questi 4 centrocampisti ci possono veramente far capire se siamo sulla strada giusta. Era questa l'ultima notizia, è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.